ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin era quasi diventato pazzo per il desiderio di rivedere Ruth. L'amore era una componente essenziale della sua natura. Il suo bisogno di tenerezza era superiore a quello di un uomo normale. Era affamato di tenerezza. Ma per lui quel sentimento significava comprendere l'altro con intelligenza. Doveva ancora imparare che la tenerezza di Ruth, invece, era per lo più composta di emotività e sensibilità. Nasceva dalla gentilezza della natura di lei, piuttosto che dalla comprensione dell'oggetto della sua tenerezza. E così, mentre Martin le teneva la mano e chiacchierava felice, l'amore che Ruth provava per lui la spinse a stringere a sua volta quella mano, e rese i suoi stessi occhi umidi e luminosi alla vista della desolazione in cui viveva il suo amato e dei segni della sofferenza impressi sulla sua faccia. Martin raccontava delle due novelle accettate, della sua disperazione quando aveva letto la lettera del Transcontinental e, al contrario, della sua gioia quando aveva ricevuto quella del White Mouse. Ma Ruth non lo seguiva. Sentiva le parole che lui pronunciava, ne capiva il significato letterale, eppure, in quel momento, lei non era lì con lui per condividerne la disperazione e la gioia. Non poteva dimenticare se stessa e lei non aveva alcun interesse nel vendere racconti alle riviste. Ciò che per lei era importante era il matrimonio, anche se non era consapevole, così come non era consapevole del fatto che alla radice del suo desiderio di vedere Martin impiegato vi fosse un bisogno istintivo ma profondo di maternità. Ruth sarebbe arrossita se qualcuno glielo avesse rivelato con parole semplici e chiare, e poi si sarebbe indignata, avrebbe affermato con decisione che l'unico motivo di quel suo desiderio risiedeva nell'uomo che amava, perché voleva vederlo ottenere il meglio dalle sue capacità. Così, mentre Martin le rivelava le sue emozioni più intime, orgoglioso del primo successo in assoluto ottenuto dal suo lavoro, Ruth prestava attenzione solo al suono di quelle parole, guardandosi di tanto in tanto intorno, turbata da ciò che vedeva. Per la prima volta, Ruth posava lo sguardo sulla sordida faccia della povertà. Gli amanti affamati le erano sempre sembrati romantici, ma non aveva idea di come gli amanti affamati vivessero, e neppure in sogno aveva mai pensato che potessero vivere così. Il suo sguardo continuava a scivolare dalla stanza a Martin e poi di nuovo alla stanza. La puzza umida di abiti sporchi entrata con lei dalla cucina era nauseante. Se quella orribile donna faceva spesso il bucato, Martin doveva essere intriso di quell'odore. Ruth concluse: il degrado le appariva un morbo contagioso. Ogni volta che guardava Martin, le sembrava di scorgere la macchia lasciata su di lui da ciò che lo circondava. Trovava ripugnante la sua faccia ricoperta da una barba di 3 giorni, quando lo aveva sempre visto rasato. Non solo quella barba gli dava lo stesso aspetto buio e tenebroso della casa dei Silva, ma sembrava enfatizzare quella sua forza quasi animalesca che lei detestava. Ed eccolo qui, ancorato nella sua follia dal fatto che 2 racconti erano stati accettati, come le stava raccontando con orgoglio. Sarebbe bastato ancora così poco, pensò, e poi lui si sarebbe arreso e sarebbe andato a lavorare. Adesso forse, per dei mesi, Martin avrebbe continuato a scrivere e a fare la fame in quella casa orribile. Cos'è questo odore? Ruth chiese all'improvviso. Ah, il bucato di Maria, immagino, fu la risposta. Ma ci sono quasi abituato. No, no, no, non si tratta di quello, è qualcos'altro. Un odore nauseante, come di rancido. Martin annusò l'aria prima di rispondere. Non riesco a sentire nient'altro a parte l'odore lasciato dal tabacco che fumo, annunciò. Ah, ecco che cos'è. È terribile. Ma perché fumi così tanto, Martin? Ah, non lo so, ma so che fumo più del solito quando mi sento solo. È un'abitudine che ho da così tanto tempo. Ho iniziato che ero solo un ragazzino. Non è una buona abitudine, sai, lo rimproverò lei. Ha un odore terribile. Questo è colpa del tabacco. Posso permettermi solo quello più economico. Ma aspetta che riceva l'assegno da $40. Ah, allora userò una marca così profumata da non infastidire neppure gli angeli. Ma non è affatto male, vero? Due racconti venduti in 3 giorni. Con quei $45 potrò pagare quasi tutti i miei debiti. $45 per 2 anni di lavoro? Indagò lei. No, no, per meno di una settimana di lavoro. Per favore, passami quel libro. Quello sull'angolo, più lontano dal tavolo. Il registro con la copertina grigia. Martin lo aprì e iniziò a sfogliarne le pagine rapidamente. Ah, sì, avevo ragione. 4 giorni per il suono delle campane, 2 giorni per il gorgo. Fa $45 per una settimana di lavoro, $180 al mese. Non riuscirei mai a guadagnare un salario maggiore. E poi, sono solo all'inizio. Per comprarti tutto quello che vorrei, $1000 al mese non sarebbero troppo. Un salario mensile di $500 non mi basterebbe. Ah, questi $45 sono solo il primo passo. Aspetta che prenda la corrente, allora vedrai solo la mia scia. Ruth fraintese le espressioni gergali usate da Martin e riprese a parlare delle sigarette. Fumi più che abbastanza, e la marca del tabacco non fa alcuna differenza. È il fumo in sé che è spiacevole. Non ha importanza quale sia la marca. Sei una ciminiera, un vulcano vivente, un fumaiolo ambulante. Sei un perfetto disastro, mio caro Martin, e sai di esserlo. Ruth si piegò verso di lui, gli occhi supplicanti, e Martin, mentre guardava quei tratti delicati, quegli occhi puri e limpidi, fu colpito, come in passato, dalla consapevolezza di non meritarla. «Vorrei che smettessi di fumare», sussurrò lei. «Per favore, fallo, eh? Fallo per me». «D'accordo, smetterò», disse lui. Farò qualsiasi cosa tu mi chieda, amore mio. Qualsiasi cosa. E tu lo sai. Ruth, allora, fu assalita da una grande tentazione. Più volte aveva potuto scorgere nella natura di Martin quel lato dolce e gentile. Era sicura che se lei gli avesse chiesto di smettere di scrivere, lui avrebbe obbedito. In quel breve istante le parole tremarono sulle sue labbra, ma Ruth non le articolò. Non era abbastanza coraggiosa, non osava, si spinse verso di lui, andandogli incontro e tra le sue braccia mormorò: «Sai, in realtà non è per me, Martin, ma per te. Sono sicura che fumare ti fa male. E in più non è un bene essere schiavi di qualcosa, soprattutto di una droga». «Io sarò sempre il tuo schiavo», sorrise Martin. «In questo caso inizierò subito a impartirti i miei ordini», disse lei. Gli lanciò uno sguardo malizioso, anche se dentro di sé Ruth era già pentita per non aver espresso il desiderio più grande. «Vivo per obbedirvi, maestà». «Bene, allora il mio primo ordine è: voi vi farete la barba ogni giorno». «Guarda come mi hai graffiato la guancia». E così tutto finì in carezze e risate tra amanti. Ruth aveva segnato un punto e, d'altra parte, non poteva pretendere di segnarne più di uno per volta. Sentì il suo orgoglio femminile risvegliarsi in lei per essere riuscita a fargli promettere di smettere di fumare. La prossima volta lo avrebbe persuaso a scegliersi un impiego. Martin non aveva forse detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa lei gli avesse chiesto? Ruth si allontanò dalle braccia di Martin per esplorare la stanza. Esaminò i quaderni appesi su un filo d'abbucato sopra la sua testa. Studiò il mistero del paranco usato per sospendere la bicicletta al soffitto e fu rattristata dal mucchio di manoscritti accatastati sotto il tavolo. Per lei rappresentavano solo tanto tempo sprecato. Ammirò il fornelletto ad olio, ma scoprì che le mensole del cibo erano vuote. «Ma tu non hai nulla da mangiare, povero caro!» esclamò con tenera compassione. «Ma devi essere affamato!» «Tengo le mie provviste nella dispensa di Maria», mentì Martin. «Si conservano meglio. Non c'è pericolo che faccia la fame. Guarda qui!» Ruth era tornata vicino a lui e lo vide piegare il braccio al gomito, così che i bicipiti montarono sotto la manica della camicia fino a gonfiarsi in un nodo di muscoli duro e massiccio. Ruth ne fu disgustata. A livello emotivo detestava quella forza, ma le sue vene, il suo sangue, ogni sua fibra la amavano e la desideravano, e infatti Ruth non si allontanò, al contrario, si protese verso di lui in quell'antico, inspiegabile modo. Nell'istante successivo, quando Martin la strinse tra le braccia, il cervello della ragazza, consapevole solo degli aspetti superficiali della vita, si rivoltò, ma il suo cuore, la donna che era in lei, legata alla vita stessa, esultò e trionfò. Era in momenti come quello che Ruth comprendeva le reali dimensioni del suo amore per Martin, quando, sentendo le sue forti braccia intorno a lei, sentendosi stringere con forza, quasi dolorante per quella presa, le sembrava di svenire per la felicità. In quei momenti Ruth non si sentiva più colpevole per aver sfidato le proprie certezze, per aver violato i propri alti ideali e soprattutto per aver tacitamente disobbedito a sua madre e a suo padre. Non avrebbero mai voluto che lei sposasse quell'uomo, erano sconvolti dal fatto che lei avesse potuto innamorarsene. A volte anche Ruth ne era sconvolta, quando era lontana da Martin, quando era una creatura fredda e irrazionale. Ma quando era con lui, semplicemente lo amava. In realtà, talvolta lo amava di un amore inquieto, preoccupato, ma si trattava sempre di amore, un amore più forte di lei stessa. Maria accompagnò Ruth alla carrozza con occhi adoranti, ma non per questo meno pronti nel notare la consistenza degli abiti che indossava e il loro taglio, un taglio inconsueto che produceva un effetto insolito e bello. La folla dei monelli fissò delusa la carrozza fino a quando non sparì dalla loro vista, poi iniziò a fissare Maria, che era improvvisamente diventata il personaggio più importante della via. Ma quando un membro della sua stessa progenie proclamò che i due erano venuti a visitare il loro affittuario, la sua nuova reputazione cadde rapidamente in pezzi e Maria ripiombò nell'antica oscurità. Martin, invece, si accorse dei modi rispettosi con i quali ora la piccola comunità dei vicini gli si rivolgeva e vide anche aumentare del 100% la stima che Maria aveva per lui. Se il droghiere portoghese fosse stato testimone di quella carrozza in visita pomeridiana, avrebbe concesso a Martin altri $3.85 di credito. Il sole della fortuna sorse anche per Martin. Il giorno dopo la visita di Ruth, ricevette da un settimanale scandalistico di New York un assegno di $3 in pagamento di 3 dei suoi indovinelli umoristici. 2 giorni più tardi, un quotidiano pubblicato a Chicago accettò i cercatori di tesori, promettendo di inviargli $10 al momento della pubblicazione. Il prezzo era basso, ma quello era il primo articolo che Martin avesse scritto, il suo primo tentativo di esprimere ciò che pensava su una pagina stampata. Come degna conclusione, il racconto a puntate per ragazzi, la sua seconda prova, fu accettato entro la stessa settimana da un mensile per la gioventù, che si era dato il nome di Youth and Age. Certo, la storia era lunga 21.000 parole, mentre l'editore si offriva di pagargliela $16 alla pubblicazione, più o meno 75 centesimi per 1.000 parole. Ma Martin sapeva che quella era la seconda cosa che avesse mai cercato di scrivere ed era perfettamente consapevole di quanto quel racconto fosse sciatto e privo di valore. Tuttavia, neppure le primissime prove di Martin erano segnate dalla goffaggine della mediocrità. La loro era la goffaggine di una forza troppo grande, quella goffaggine che il principiante tradisce quando usa l'ariete per fermare una farfalla e la mazza da guerra per scolpire vignette. Per questo Martin era felice di vendere anche per poco i suoi primi sforzi. Ne conosceva bene il valore. Era bastato poco tempo per scoprirlo. Tutte le sue speranze erano riposte nei lavori più recenti. Aveva lottato per essere qualcosa di più di un semplice scrittore di racconti per giornali. Aveva cercato di equipaggiarsi con gli stessi attrezzi dei maestri. Nel farlo, non aveva sacrificato la sua forza, al contrario. Era consapevole di aver cercato di accrescere la propria forza, evitandone però gli eccessi. Martin non si era mai allontanato dal suo amore per la realtà. Nei suoi lavori parlava sempre di cose reali, pur sforzandosi di fondervi la fantasia e la bellezza dell'immaginazione. Ciò che voleva ottenere era una realtà ricca di passione, attraversata da quella fede e da quel desiderio che appartengono agli esseri umani. Voleva la vita così com'era, piena di tutte quelle cose che cercano lo spirito e raggiungono l'anima. Nel corso delle sue letture, Martin aveva scoperto 2 scuole di narrativa. Una trattava l'uomo come un dio, ignorandone le origini terrene, l'altra considerava l'uomo argilla, ignorandone i sogni inviatigli dal cielo, le potenzialità divine. Secondo Martin, sia la scuola del divino, sia quella dell'argilla sbagliavano, e sbagliavano perché si mantenevano eccessivamente legate ai propri principi. Certo, esisteva un compromesso che si avvicinava alla verità, sebbene non lusingasse la scuola del divino e ponesse delle sfide alla brutale barbarie della scuola dell'argilla. Martin era convinto che il suo racconto avventura, messo alla prova con Ruth, esprimesse la sua verità, il suo ideale nella narrativa, e in un saggio Dio e Argilla aveva espresso la sua opinione sull'argomento. Ma avventura e tutte quelle opere che Martin giudicava migliori mendicavano ancora da un editore all'altro. Ai suoi occhi i primi lavori non avevano alcun valore, a parte il denaro che gli avevano procurato. Pur avendo venduto due dei suoi racconti dell'orrore, non per questo li considerava letteratura. Quei racconti erano chiaramente il frutto dell'immaginazione e della fantasia, rivestiti, però, dell'incanto del reale, e proprio per questo erano efficaci. Per Martin, rivestire di realtà qualcosa di grottesco e di impossibile era un trucco, un abile trucco nella migliore delle ipotesi. Ma la grande letteratura non poteva abitare in quel campo. Certo, quei racconti erano scritti con notevole maestria, ma per Martin erano privi di valore, perché lontani dall'umanità, la quale, in quelle storie, era solo una maschera gettata sopra la faccia dell'arte. In ciò consisteva il trucco usato nella mezza dozzina di racconti dell'orrore scritti prima di raggiungere le alte vette di avventura, gioia, il crogiuolo e il vino della vita. Martin usò i $3 ricevuti per le poesiole per sbarcare in qualche modo il lunario fino all'arrivo dell'assegno del White Mouse. Incassò il primo assegno dal droghiere portoghese, alquanto sospettoso, e lo usò per pagargli $1 di acconto, poi divise gli altri $2 tra il fornaio e l'ortolano. Non poteva ancora permettersi la carne, e quando arrivò l'assegno del White Mouse, era stato di nuovo costretto a ridurre le sue razioni quotidiane al minimo. Dopo aver saldato anche gli altri debiti, riscattò l'abito e la bicicletta, pagò un'altra rata della macchina per scrivere e diede a Maria il mese d'affitto che già le doveva e un altro in anticipo. Alla fine si ritrovò in tasca per le emergenze una riserva di quasi $3. Quella piccola somma sembrava a Martin una vera fortuna. Non appena aveva potuto riscattare i suoi abiti, era andata a trovare Ruth, e lungo la strada non era riuscito a trattenersi da far tintinnare le monetine in tasca. Come un uomo appena salvato dalla morte per fame non riesce ad allontanarsi dalla vista del cibo, così Martin era stato troppo a lungo senza denaro per poter allontanare la mano dalla tasca dove teneva le monetine d'argento. Non si trattava di meschinità o di avarizia. Quel denaro significava per lui molto di più del suo valore in dollari e centesimi. Significava successo. Per Martin, le aquile impresse sulle monete erano altrettante vittorie alate. Senza che se ne accorgesse, Martin cominciò a pensare che quello in cui viveva era davvero un bel mondo. Gli sembrava davvero più bello. Prima, per settimane, il mondo gli era apparso piatto e triste, ma adesso il sole brillava luminoso e caldo. Adesso che aveva pagato quasi tutti i suoi debiti, che i $3 tintinnavano in tasca e la sua mente era pervasa dalla consapevolezza del successo ottenuto. Persino lo scroscio di pioggia che infradiciò la gente per strada lo divertì. Quando era affamato, i suoi pensieri continuavano a indugiare sulle migliaia di esseri umani che soffrivano la fame in tutto il mondo. Ora che era sazio, quelle migliaia di infelici non pesavano più nel suo cervello. si era dimenticato di loro e poiché era innamorato, ora pensava agli innumerevoli amanti sparsi in tutto il globo. Temi adatti a liriche d'amore iniziarono ad agitarsi spontaneamente nel cervello, così che Martin, trascinato dall'impulso creativo, scese dal tram ben due isolati dopo la sua fermata, senza darsene pensiero alcuno. Trovò molte persone a casa dei Morse. Le due cugine di Ruth erano venute a visitarla da San Rafael e la signora Morse, sentendo di doverle intrattenere, ne approfittava per portare avanti il suo piano, circondando la figlia di gente giovane. La campagna bellica era iniziata durante la forzata assenza di Martin ed era in pieno svolgimento. Ormai per la signora Morse era fondamentale avere la casa piena di uomini impegnati nel mondo. Così, oltre alle cugine Dorothy e Florence, Martin incontrò due professori universitari, uno di latino, l'altro di inglese, un giovane ufficiale dell'esercito appena tornato dalle Filippine, vecchio compagno di scuola di Ruth, un giovanotto di nome Melville, segretario personale di Joseph Perkins, il capo del San Francisco Trust Company. Ultimo tra gli uomini c'era un cassiere di banca in carne ed ossa, Charles Hapgood, un giovane uomo di 35 anni, laureato alla Stanford University, oratore del Partito Repubblicano durante le campagne elettorali. In breve, un giovane pieno di promesse. Tra le donne, ve n'era una che dipingeva ritratti, una musicista professionista e ancora un'altra che possedeva una laurea in sociologia ed era famosa in città per l'opera di assistenza che svolgeva nei quartieri più poveri di San Francisco. Ma le donne non avevano un ruolo importante nel piano della signora Morse. Nel migliore dei casi erano accessori necessari. Quelli che in qualche modo dovevano essere attratti nella sua casa erano gli uomini impegnati ad agire nel mondo. Non perdere il controllo durante la conversazione fu l'ammonimento di Ruth a Martin prima che iniziasse la dura prova delle presentazioni. All'inizio Martin si comportò un po' rigidamente, oppresso dalla consapevolezza della propria goffaggine, soprattutto delle proprie spalle che, ancora prone all'antico vizio di oscillare di qua e di là, minacciavano di distruggere mobili e soprammobili. Ma anche la compagnia in cui si trovava contribuiva a farlo sentire in imbarazzo. Non era mai stato in contatto con creature così nobili e, soprattutto, con così tante nello stesso tempo. Hapgood, il cassiere di banca, lo affascinava. Così decise che alla prima opportunità avrebbe cercato di indagarne la personalità. Al di sotto del timore che provava in quel momento, Martin celava un forte ego che lo spingeva a misurarsi con quegli uomini e quelle donne per scoprire se avessero imparato qualcosa dai libri e dalla vita che lui ancora non sapesse. Lo sguardo di Ruth vagava spesso nella sua direzione per vedere come Martin se la stesse cavando. Fu sorpresa e felice per la facilità con la quale intratteneva le sue cugine. Durante la conversazione Martin non perse mai il controllo e, stando seduto, le spalle non lo preoccupavano più. Ruth conosceva le sue cugine come ragazze sveglie, brillanti, seppure in modo superficiale, e un po' si meravigliò quando più tardi, al momento di andare a letto, le due si mostrarono entusiaste di Martin. Ma lui, che era sempre stato considerato un talento nella sua stessa classe, quello che faceva ridere tutti con i suoi indovinelli e le sue battute durante i balli o i picnic domenicali, aveva trovato alquanto semplice far ridere e lanciare battute anche nel salotto dei Morse. Quella sera il successo fu dalla sua parte. Gli batté la mano sulla spalla per dirgli che se la stava cavando bene, che poteva permettersi di ridere e di far ridere senza vergognarsene. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini.